versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, buon giovedì 2 di luglio, 16:31 primi, siamo in diretta dagli studi Radio 24 qua di Milano. Oscar Giannino vi saluta, vi ringrazia come sempre per chi ascolta in diretta per il podcast e vi ricorda l'indirizzo, la versione di Oscar @radio24.it per proporvi temi e voi direttamente per testimoniare su questioni che vi capitano ma che sono un problema per tutti. Sapete che molte trasmissioni nascono da voi perché qui siamo per darvi voce diretta nel rispetto di tutte le opinioni. Detto questo, subito il tema del giorno, consentendo di riflettere a voi rapidamente se chiamarci per dare un'opinione all'800 24 00 24, per gli sms 349 238 6666. Giustizia, parleremo di due casi di giustizia, o meglio, le opinioni ve le chiedo su entrambi i casi, e cioè su due decisioni che fanno molto discutere, assunte una due giorni fa e una stamattina. Sto parlando stamattina quella del caso De Luca, il giudice ordinario, sapete che la competenza è diventata del giudice ordinario sulle sospensioni disposte dalla legge Severino per gli amministratori locali anche condannati in primo grado, mentre per i politici nazionali sono le condanne passate in giudicato, quella che si applicò a Berlusconi. Sapete la vicenda, De Luca si è candidato comunque essendo un soggetto chiaramente identificato dalla legge vigente come soggetto a sospensione obbligata di 6 mesi per legge. Il Presidente del Consiglio, il primo del Consiglio dei Ministri utile dopo le elezioni in cui De Luca ha vinto e quindi gli elettori hanno scelto lui comunque sapendo qual era la sua condizione, De Luca ha sempre detto la legge, mi aspetto che la Corte Costituzionale, che se ne occuperà a ottobre, la faccia decadere, quindi votatemi comunque. Decreto di sospensione dovuto per legge al primo del Consiglio dei Ministri utile da parte del Premier Renzi. Nel frattempo, lunedì, i legali di De Luca depositano l'impugnativa della sospensione al giudice ordinario, che per sentenza della Corte di Cassazione è diventato competente, non più il giudice amministrativo. Il giudice ordinario arriva a una decisione stamattina, in 36 ore dopo il deposito dell'istanza, è una procedura d'urgenza, quella che si chiama ex articolo 700 del codice, 36 ore, quindi record, I tempi della giustizia sono uguali per tutti in Italia, e dispone immediatamente che, accogliendo l'istanza dei legali di De Luca, che De Luca può regolarmente insediarsi e nominare la giunta. Questa è la decisione del giudice Cioffi, il quale nell'ordinanza scrive anche che la sovranità popolare non può essere alterata dalla legge, un principio che quando lo affermava Berlusconi faceva insorgere tutta la sinistra, secondo me giustamente, e inoltre sempre nell'ordinanza scrive che il disinvolto, testualmente questo è l'aggettivo, decreto emanato dalla Presidenza del Consiglio, quello di sospensione di venerdì scorso, destabilizza e delegittima organi istituzionali. Il disinvolto decreto di sospensione, ripeto, dovuto per legge. Quindi il principio messo per iscritto nell'ordinanza è non solo che chi vince alle elezioni vince sulla legge, che è vigente, perché se non va bene io posso essere d'accordo che bisogna cambiarla prima. La legge è vigente. Il giudice Cioffi dice che la sovranità popolare non va piegata e dice che il decreto di sospensione, ripeto, dovuto per legge, delegittima e destabilizza gli organi istituzionali. La mia opinione è che a delegittimare e destabilizzare sono i politici che, essendo chiaramente individuati come soggetti a sospensione dovuta per legge, si candidano comunque. Poi possono farlo perché sono candidabili, ma non è la legge vigente. La legge vigente, se non c'è, si cambia, se non va bene, voglio dire, si cambia. Se c'è, io mi aspetto che un magistrato la applichi, non la bolli come delegittimante le istituzioni. Però naturalmente questa è un'opinione mia, dite voi come la pensate. Secondo caso, quello invece che approfondiamo poi con un ospite, perché in questo c'era il mero fatto da ricordarvi e chiedere a voi che cosa ne pensate, siate campani e abbiate votato per De Luca o contro De Luca, e la cosa vi riguarda comunque direttamente perché avrete comunque una giunta comunque prestissimo all'inizio di luglio, o siate anche italiani e non campani, perché c'è un chiaro esempio di una legge che in un caso si applica e in un altro si interpreta, come devo dire, perché così resta. Il secondo caso è invece la incredibile, a mio giudizio, però questa volta non solo a mio giudizio, decisione assunta a Monfalcone, e cioè stiamo parlando dell'ordinanza di sequestro giudiziale delle aree usate da Fincantieri per lo stoccaggio dei residui di lavorazione ferrosi e non solo ferrosi, una vicenda giudiziaria che è andata avanti per molti anni, perché ha già prodotto due gradi di giudizio di merito a carico di Fincantieri, una sentenza di Cassazione che ha annullato i due gradi di giudizio, accogliendo la tesi che Fincantieri è perfettamente titolare dei permessi obbligatori per lo smaltimento dei rifiuti secondo la legge italiana e secondo anche la direttiva europea che abbiamo introdotto sullo smaltimento dei rifiuti, la 2008 del 1998, e che eventualmente il problema dei permessi in regola con la legislazione italiana e europea era quella delle ditte subappaltatrici che si occupano dello smaltimento di questi residui che sono nelle aree sequestrate. Dopodiché, quindi, c'è stato un terzo processo di merito e dopo quattro processi e anni di aule e tribunali siamo arrivati al sequestro disposto dai magistrati, sequestro per il quale Fincantieri ha interrotto la lavorazione, e quindi siamo al terzo giorno di interruzione della lavorazione in un cantiere che è pieno di ordini. Fincantieri è al top mondiale nella cantieristica crocieristica, ha preso un'altra commessa proprio ieri per una nave militare da 1.100.000.000. In quel cantiere lavorano 4.500 persone e intorno a Fincantieri e Monfalcone ci sono 350 ditte subappaltatrici. Quei 4.500 lavoratori sono uno su quattro italiano, perché poi 3 su 4 sono immigrati in regola che lavorano, perché lavorare in cantiere è una cosa molto pesante che gli italiani non gli piace più molto fare, cioè saldare, coibentare, queste cose qui, e quindi 3 lavoratori su 4 vengono dai paesi più diversi, bengalesi, croati e così via. Sta di fatto che il cantiere che dà lavoro a 4.500 persone in una città che ne ha 30.000 è fermo, e il giudice su intervista stamattina è tornato a difendere il suo provvedimento. È un bis del sequestro avvenuto nel caso Ilva, che dopo il sequestro dei parchi minerari all'aperto si è esteso ai conti economici della società, al patrimonio dei soci, agli input di lavorazione, all'output, cioè al prodotto di lavorazione. Sapete tutti che cosa è avvenuto a Ilva fino ad arrivare a un esproprio senza indennizzo a Riva, senza che ci fosse ancora un processo a Riva. Ecco, allora, bis del caso Ilva. Naturalmente questa volta le reazioni sono molto diverse, perché le reazioni sono unanimemente contrarie al giudice, perché l'impresa è di Stato, e quindi io sono disposto a scommettere che se fosse stata di un privato, invece nessuno questa volta sta col magistrato, neanche Verdi, neanche Sell, e finalmente c'è un coro di voci che dicono: ma è possibile mai che la magistratura, dopo quattro processi e con un'ordinanza, attenzione, che a propria volta solleva problemi proprio sulla normativa esistente, sia quella italiana che quella europea, si arrivi al sequestro di aree nel quale i materiali ferrosi, non stiamo parlando qua di residui di lavorazione tossici come quelli dell'Ilva, stiamo parlando sicuramente di ferraglia, rottami, cose di questo genere. Però intanto facciamoci spiegare meglio questo caso da parte innanzitutto di chi rappresenta un po' dei lavoratori proprio di quell'azienda che è ferma, ed è con noi per dirci che cosa è avvenuto in questi anni, innanzitutto, in cui c'erano i processi in corso, cosa hanno capito i lavoratori e il sindacato di quello che avveniva appunto alla Fincantieri a Monfalcone. Ed è quindi con noi, e lo ringrazio per parlarcene, Alberto Monticco, che è il segretario della Film CISL del Friuli Venezia Giulia. Buon pomeriggio, Monticco. Buon pomeriggio a voi. Allora, voi siete rimasti sorpresi del sequestro adottato dai giudici, oppure avevate capito dopo anni di processi che poteva essere un provvedimento dietro l'angolo? No, assolutamente sorpresi, anche perché dopo due gradi di giudizio, come ricordava lei, che andavano in una certa tendenza, c'è stato un terzo grado che ha rovesciato la cosa. Ma soprattutto perché, differentemente da Ilva, io non accosterei molto il discorso a Ilva, perché, come ricordava lei, lì c'era un problema di inquinamento ambientale, di danni che sono... Qui c'è un problema di smaltimento di rifiuti ferrosi, quindi di lamiere, tubi e quant'altro, in un discorso di un'area che porta un ingombro notevole, cioè lì bisognerebbe un attimo vedere come funziona la banchina e la costruzione di una nave per capire questo. Certo. L'altra cosa, quindi aspetti un secondo, sì, anche prego, per la salute e la sicurezza, innanzitutto dei lavori di chi ci lavora, mi perdoni, e poi della cittadinanza di Monfalcone, i lavoratori dell'impresa sono ragionevolmente certi che non si tratta di un'area il cui sequestro e il sequestro dei materiali che vi sono depositati è motivabile con ragioni di improcrastinabili, ragioni di messa in sicurezza per la tutela della salute di chi ci lavora e della popolazione? Sì. Glielo dico anche perché a 50 chilometri, forse meno, noi abbiamo avuto il problema della ferriera di Servola, sì, che ha tutto altro tipo di ambiente, eccetera, su cui c'era un problema di inquinamento che non ha avuto il provvedimento che ha avuto la Fincantieri di Monfalcone. L'altro problema che io vorrei segnalare, fermo restando, come ha detto lei, il lavoro della magistratura che è assolutamente autonomo e per su carità, cui abbiamo una fiducia, che negli ultimi 2 anni e mezzo, adesso vado un po' a memoria, sono state fatte 280 ispezioni in quel cantiere di carattere preventivo. Esatto. Allora, voglio dire, se ci ripeta il numero perché non è un errore, cari ascoltatori, 280 ispezioni fatte da INAIL, ASL, da vari enti ispettivi, di cui, se non vado errato, 110 su quanto riguarda irregolarità contributive, quindi per andare a verificare un discorso del sistema degli appalti nel solo 2014. Adesso voglio dire, se questo lavoro ispettivo, preventivo, verificatorio e quant'altro, avesse dato dei segnali allarmanti, io credo che si sarebbe dovuto intervenire ben prima del provvedimento che è scattato l'altra settimana. Quindi c'è questa cosa che un po' stride. La terza cosa, recentemente è stata fatta la consegna di una nave, non mi ricordo il nome, mi sembra che era la Carnival Breeze, però potrei sbagliare, in cui il premier Matteo Renzi è venuto a parlare delle 3F italiane, sì, Ferrari, Food, Fashion, e c'è anche la 4ª Fincantieri. Adesso, fermo restando che questa è un'azienda complessa su cui ci saranno sicuramente anche delle responsabilità, per l'amor di Dio, però nel sistema paese questa è un'azienda che ha 8 cantieri, è stata quotata in borsa, c'è un discorso anche a livello europeo e mondiale. Non si poteva intervenire con l'aiuto di tutti, quindi magistratura, autorità ispettive, preventive, sindacato, azienda, parti datoriali, per anticipare un provvedimento di chiusura? Cioè adesso, se un armatore che lì c'è una nave in allestimento da domani decide di cambiare sito, che magistrato ce lo riporta indietro? Bravo, perché sono contento che sia lei stesso per primo a sollevare questo tema, perché, come sa, noi in realtà abbiamo modificato una legge che recentemente da parte di questo governo e con molte polemiche da parte della magistratura innanzitutto, che è inerente proprio al tema della responsabilità civile del magistrato per colpa grave. Naturalmente non stiamo parlando della possibilità di opinare il libera determinazione dei giudizi del magistrato, però in caso di colpa grave a fronte di danni che poi si verificano incalcolabili. Allora, in questo caso, siccome è esattamente come dice lei, cioè siamo esattamente con i lavori avanzati in quel cantiere di una nave da consegnare. Ci sono tre navi. Allora, lì stiamo parlando di una cosa in cui iniziano a ballare centinaia e centinaia di milioni, e poi a quel punto il danno diventa che per le altre grandi aziende croceristiche internazionali, quando si toppa su una cosa di questo tipo, si orienta diversamente la scelta degli ordini. Certo. Ecco, allora, assolutamente sì. Allora, io sono molto contento che lei sollevi questo problema, perché naturalmente ha visto le interviste stamattina anche lei del magistrato, il magistrato dice: ma a noi tocca applicare la legge, non porci questi problemi, ed è esattamente la cosa che a me lascia senza parole, perché il vecchio detto kantiano fiat justitia pereat mundus può valere, per così dire, sui manuali. Nel mondo in cui viviamo, dire che la giustizia deve essere cieca alle sue conseguenze a me non convince, perché qui stiamo parlando di migliaia e migliaia di lavoratori e famiglie, di ordini per miliardi di euro, perché di questo si tratta, cari ascoltatori, e a me un giudice che dice io stesso, perché lo scrivono nell'ordinanza, io stesso ho dei dubbi sulla normativa che sono chiamato ad applicare. Però sapete che c'è dopo tre processi, anzi quattro, perché terzo grado di giudizio e Cassazione che annulla i primi due e poi il quarto processo di merito che si incardina a questo punto su ditte subappaltatrici, sapete che c'è, io sequestro tutto e quindi chiudete pure. Lei che dice di una giustizia che avanza così, e cioè che non si coordina, come ha detto, cioè che si pone il problema, il giudice deve decidere, però insomma, prima di assumere una decisione di questo tipo forse dovrebbe in qualche maniera porsi il problema, lei che pensa? Allora io, come qualche articolo oggi sulla stampa, parlo di inefficienza del sistema paese, dove la mano destra non sa quello che fa la sinistra. È vero che il giudice deve applicare la legge, però io credo che da questo punto di vista ci sia anche un discorso di rischio e di pericolosità del provvedimento. Qui non fuggiva nessuno, non c'era un inquinamento delle prove, non c'era un pericolo di rischio della salute. Ma tre anni fa, quando per vari incidenti sono morte tre persone, qualche giudice ha pensato a chiudere il cantiere? Allora, voglio dire, se davanti a un lutto di quel tipo di incidenti sul lavoro, su cui dopo hanno indagato la Matteo e un altro percorso, non ci si è posti questo problema. Davanti a un problema di altro tipo, poi la legge va rispettata, gli smaltimenti vanno fatti, certo, secondo norma, per l'amor di Dio. Però io credo che da questo punto di vista ci dovrebbe essere un discorso di discrezionalità che quantomeno provi a conciliare l'esigenza di fare impresa e dei lavoratori di poter lavorare, perché alla fine poi il danno, adesso ci sarà il provvedimento governativo, ma il danno del non aver la paga ce l'hanno i lavoratori. Ah, no, no, beh, non c'è dubbio. Allora credo che da questo punto di vista ci dovrebbe essere un metodo per cercare di prevenire questi provvedimenti e non di andare a giustificarli, a discuterli sempre, ecco, dopo. Ecco, Montico, la mia, integro quello che dice, sottoscrivendo qualunque sua parola fin qui pronunciata, che ho l'impressione, come dire, che i giudici non lo hanno costitutivamente, per bagaglio professionale, non sono tenuti ad avere una cognizione e una consapevolezza vera di cosa sia un'impresa, perché fanno un altro mestiere, perché nel loro percorso di studi non è previsto e perché vinto il concorso poi non sono tenuti ad adeguamenti e perché assumono provvedimenti generalisti non in sezioni specializzate, e quindi temo che il problema di un giudice che assume decisioni di questa importanza, di questo impatto sulla vita di aziende, possono essere piccolissime o enormi come Fincantieri, quando mancano i presupposti per comprendere davvero laddove si sta intervenendo e che cosa si provoca, sia un altro problema fondamentale che nell'ordinamento giudiziario italiano resta totalmente irrisolto. Un giudice deve saper valutare quali sono gli effetti delle sue decisioni, non dire signori questo riguarda voi, io che c'entro, questa è la giustizia imparziale e impersonale. No, questa è una giustizia che provoca un'infinità di danni, sia pure in presenza dichiarata dal giudice di un dubbio interpretativo grande come un grattacielo, che se non sono bastati quattro gradi di giudizio a risolvere. Comunque io intanto ringrazio Alberto Montico, il segretario della FIM CISL del Venezia Giulia, per la testimonianza che ci ha reso. Torniamo tra 60 secondi con le vostre telefonate, adesso strade. La versione di Oscar. Eccoci qua, naturalmente c'è chi protesta dicendo vergognati, inviti solo la CISL. Scusate, no, anche la FIM, tutti i sindacati sono su questa posizione, leggete, veramente, cioè siete, alcuni di voi sono inguaribili, per così dire. C'è chi dice che il sindacato è bugiardo come me, potete controllare quello che abbiamo detto, perché riflettete se non c'è una sola voce a favore del giudice questa volta, riflettete, perché poi io non convinco nessuno, rimanete della vostra idea, chiudiamole tutte le imprese, facciamo decidere ai giudici tutto quello che cacchio volete, poi vi beccate il giudice su De Luca, però vediamo se quando va in pensione lo candidano da qualche parte, questa è la mia sensazione. Non ho paragonato De Luca a Berlusconi, alla gravità dei reati per cui è stato processato Berlusconi, no, dico che c'è una legge e la legge, se si interpreta per quelli di una parte, non mi va bene, quindi non mi va bene. Era candidabile, chi lo ha votato lo sapeva, però la sospensione è dovuta per legge, e invece un giudice in un articolo 700, quindi in un provvedimento che non si esprime nel merito, l'udienza di merito ci sarà più avanti, ha scritto nell'ordinanza quello che vi ho riportato leggendola. Per me è un problema, Forse per voi no, ma per me sì, perché c'è una giustizia che dice che la sospensione dovuta per legge e scritta nel decreto di sospensione da Renzi, quella destabilizzava le istituzioni. Quello, il decreto dovuto per legge di sospensione destabilizzava le istituzioni. Se la pensate così, non vi lamentate di un giudice che decide non secondo principi di legge, ma a seconda di chi è colui al quale si applica. Io posso rispettare, se volete, un paese così, però certo io me ne vado, perché non sono molto sicuro del fatto che sia quella l'interpretazione di una legge nel nostro paese. Sentiamo come la pensate. Alberto da Parma, prego Alberto. Io ringrazio, perché l'unico mio appunto era questo: mi sembra che la legge Severino sia nata in un contesto del governo Monti, dove si tentava di mettere mano e dare risposte quasi internazionali a 20 anni di Berlusconi. Indubbiamente poteva essere una risposta alla legge Cirami, che è stata la prima legge del governo Berlusconi. Forse una piccola modifica, una certa discrezionalità sono dovute, sicuramente è stato, credo, un intervento ad personam, ma arrivavamo da 20 anni folli, 20 anni ad personam, e una legge ad personam forse ci stava. No, io sono d'accordo nel dire che quella è la genesi della legge, però la legge ad personam, adesso che lei chiede, è una modifica della Severino? Io posso essere d'accordo sul fatto che la modifica della Severino debba intervenire sul fatto, ripeto, che per i politici nazionali ci vogliono condanne passate in giudicato, per i politici locali bastano le sentenze di primo grado, come è quella appunto nel caso di Luca. Resta il fatto che nel primo caso è applicata. Nel secondo caso qua la stiamo interpretando, nel frattempo la legge non è cambiata. I magistrati cosa fanno a questo punto? Non guardano le leggi vigenti? I magistrati possono, se c'è un problema, rinviarle alla Corte. Infatti alcuni lo hanno già fatto sulla Severino, e la Corte Costituzionale ha previsto che esamini la legge a ottobre. Nel frattempo cosa facciamo? Non la applichiamo? Questa è la mia domanda. Come facciamo a non applicarla? Certo, il giudice dice che non la applichiamo. Perfetto, viva la legge. Io non sono molto d'accordo, sapete, perché notizia di oggi, la commissione di 5 magistrati che era stata incaricata dal Presidente di Camera e Senato di fare controlli di legittimità dovuti nella nuova legge sul finanziamento elettorale, sapete che stiamo diminuendo di anno in anno fino al 2017 le tranche di finanziamento pubblico ai partiti, c'è una commissione di tecnici, di magistrati che verifica la legittimità dei bilanci elettorali presentati dai partiti, la commissione incaricata a 5 magistrati. Contabili amministrativi ha depositato 5 cartelle ieri in cui dice: non siamo stati in condizioni di fare la verifica sui bilanci dei partiti del 2013, i motivi addotti sono: non ci hanno dato i dipendenti per farlo. Allora, anche lì piccola conferma del fatto che la politica continua a fare quello che vuole. La legge l'abbiamo fatta e i controlli e le verifiche di legittimità, guarda la commissione addetta non è in grado di farli. Vi piace? A me non piace. Può essere che vi piaccia. Lorenzo da Brescia, prego Lorenzo. Sì, Daniele, buongiorno. Io volevo ritornare sul discorso prima di De Luca lì. Sì. Non perché De Luca, per l'amor di Dio, però io dico adesso, io non so più cosa pensare. Allora, abbiamo delle leggi, hanno fatto dei decreti. Io odio le cose qua che, cioè, se ne fregano altamente delle leggi, dei decreti, fanno quello che vogliono e la loro congrega, la loro parrocchia li votano pure. Cioè, se c'è un decreto, c'è una legge, non può fare quello che vuol fare lui. Cioè, se ne fregano, questo, cioè, che insegnamento, io non lo so. Poi un'altra cosa, il signor Renzi, il nostro grande Renzi, no? Addirittura anche in Europa diceva: chi ha sbagliato deve pagare, deve andare in prigione, qua sa e là. Ma noi dove andiamo a finire? Guardi, io spero che l'Italia, gli italiani, guardino bene, perché sappiano dove devono andare a votare. Perché così, se cominciamo a fare le cose un po' come si deve. Naturalmente gli italiani sanno, vedete, questa è la sua opinione su come votare, io non sto parlando di quello. Mi scrive Lucio da Napoli: se la legge va rispettata anche la sentenza del giudice Cioffi. Sì, Lucio, che dice però che la legge destabilizza la sovranità popolare. Insomma, ce lo pone il problema, Lucio, o no? Poi, per carità, la legge, la sentenza non è una sentenza, è un'ordinanza, verrà applicata e quindi nasce la giunta e lui sarà presidente, per carità, chi dice niente? Però il problema lo possiamo porre. Un altro ascoltatore mi dice: tu da una parte ti lamenti della cecità della legge, cioè nel caso di Monfalcone, e dall'altra della legge esistente. No, io difendo la legge esistente fino a che non è modificata a Severino. Poi sono il primo a dire che va modificata, però finché c'è, no? Si applica. Secondo, nel caso del giudice, abbiamo spiegato che è il giudice stesso ad avere dubbi sulle norme europee e italiane che applica, e ciò malgrado discrezionalmente decide per la misura più pesante che fa chiudere il cantiere. Capite che quindi non c'è alcuna contraddizione tra le due cose. Stiamo parlando della discrezionalità del giudice, sia nel caso Cioffi che nel caso di Monfalcone. Sentiamo come la pensa Giuseppe da Milano. Giuseppe, prego. Sì, buongiorno, buon pomeriggio. Io non voglio fare a tutti i costi il bastian contrario, voglio tornare alle origini. Parliamo un attimo del caso De Luca. Sì. Non so quanti lo sanno, forse l'1%, e poi mi collega a quanto ha detto lei. Deve essere rapido. L'1%, lui è quel reato che ha fatto De Luca. L'abuso d'ufficio dovuto, lei ci ha spiegato mille volte. Però la fattispecie è quella di legge, caro Giuseppe. Non ci posso far niente se un giudice l'ha condannato in primo grado. Comunque, continuate su Radio 24, il tempo di oggi è finito. Appuntamento come domani.